Dialog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Un nuovo appuntamento, una nuova rubrica che sono i segreti proprio di nonna Marisa, perché come si cura il mal di gola, come si cura il mal di testa e come si cura il mal di denti, basta medicine. Iniziamo dal primo rimedio, il mal di gola. Esatto. Allora, che cosa si prende? Esordiamo con una cipolla di Tropea. Il mal di testa, la cefalea, piuttosto che l'emicrania. Se soffri di questo problema, di queste problematiche, allora scopri il segreto di come fare a fartelo passare in 30 secondi con il tuo respiro. Sta per arrivare in commercio un nuovo tipo di bevanda, una bevanda a base di pipì di vacca, e tra le principali proprietà che ha questa bevanda ci sono quelle antisettiche e depurative. Secondo alcune teorie, infatti, alcuni prodotti a base di pipì di mucca sarebbero dei veri e propri toccasà, una sorta di panacea per i problemi del fegato, per il diabete o addirittura per il cancro, ma andiamoci piano su questo. È una bevanda che proviene dall'India e si sa che in questo paese molte persone Premetto, sono solite. Premetto, oggi non è una trasmissione medica, non è questo il mio intento, non ho supporti personali, tecnico-scientifici per poter fare una trasmissione tipo medico. Il tema oggi è perché esiste un diffuso movimento di pensiero che parte dai più cialtroni programmi televisivi della prima mattinata dedicati alle massaie e va fino alle alte sfere dell'informazione, per cui viene avvalorato il principio che in realtà tutto ciò che è scientificamente provato, ma naturalmente suscettibile di ogni variazione, è frutto di una sorta di oscura consorteria basata su interessi economici, interessi di casta, interessi di vario tipo, se non anche di controllo sulla umanità. E in realtà le vere chiavi della salute dell'umanità, del benessere dell'umanità, starebbero in antichi, misteriosi, fantastici metodi, come appunto avete sentito, la cura delle cipolle, la cura della pipì di vacca. Ma questo che sembra una facezia, sembra uno scherzo, sembra qualcosa che appartiene soltanto a una sfera di divertissement popolare, in realtà poi, quando ricade in effetti concreti, ha le sue conseguenze. La notizia che invece diamo noi questa mattina è stata poco celebrata in realtà nei nostri giornali, ma vi posso dire che nel Galles sta esplodendo una epidemia di morbillo. Ci sono casi, poi ne parleremo, di bambini che rischiano anche molto perché hanno il morbillo. Malattia che normalmente pensavamo superata dalla vaccinazione, ma in realtà in Galles è stato dato molto credito a una cialtrona teoria per cui le vaccinazioni producessero chissà quale effetto collaterale, quindi molti, centinaia di genitori non hanno vaccinato i bambini dal morbillo. Di questo ne parliamo per avere qualche informazione di più dal corrispondente da Londra del Sole 24 Ore, Leonardo Maisano. Leonardo, buongiorno. Buongiorno a voi. Vediamo se riesce a darci qualche altro elemento rispetto a questa notizia che sembrava delle meno importanti in questi giorni, che in realtà in Italia stiamo trattando di molte vicende importantissime. Sì, la cosa nasce da questa, asserzione di questo medico che poi è stato invitato ad abbandonare la professione, questo Andrew Wakefield, che anni fa suggerì e immaginò di mettere in relazione l'autismo con le vaccinazioni per il morbillo, perlomeno la triplice, quella che cura morbillo, orecchioni e altre malattie infettive. Questa relazione tra possibile insorgere dell'autismo e la vaccinazione ovviamente fu concentrata soprattutto in Galles, perché l'allarme fu lanciato nella zona di Swansea, è lì che si parlò più di questa ipotesi, e questo innescò nella popolazione, come dire, la decisione di non vaccinare i figli. Il risultato è che c'è una epidemia di morbillo adesso nella fascia di ragazzi che erano bambini all'epoca e che non accettarono di fare la vaccinazione. Ci sono stati 700 casi di morbillo negli ultimi mesi, e ci sono più di 6.000 bambini che non sono stati vaccinati e che sono nell'area di Swansea e che adesso le autorità sanitarie cercano di contattare per invitarli a farsi vaccinare. Va detto che questo Andrew Wakefield ha accusato le autorità dicendo: voi avete sbagliato perché questa cosa nasce perché non avete importato poi invece il vaccino singolo contro il morbillo, che invece secondo lui non aveva nessun tipo di effetto collaterale. Ipotesi e tesi che poi è stata contestata dalle autorità sanitarie, adesso c'è, come dire, una polemica su questo. La realtà, come dicevamo, è che ci sono stati 700 casi di morbillo negli ultimi mesi, 6.000 bambini almeno non sono vaccinati solo nell'area di Swansea, non ci sono stati casi per ora, come dire, di bambini morti, però nel morbillo prima che fosse introdotta la vaccinazione poi messa in qualche modo al bando, cioè negli anni 60-70 faceva circa un centinaio di vittime in Gran Bretagna. Qual è l'opinione generale sui giornali inglesi rispetto a questo fatto? Perché è una palese dimostrazione che in realtà la disinformazione, la cialtronaggine, quando viene assunta a livello di certezza, e ti ho convocato su questo e sei stato cortese a darmi informazioni, perché in questo momento in Italia esiste qualcosa di simile, esiste un diffusissimo e anche riverberato sui mezzi di comunicazione ufficiali sentore rispetto a questa idea che i vaccini produrrebbero l'autismo. Ecco, in realtà i giornali inglesi come hanno reagito di fronte a questa cosa? Ma c'è un dibattito in qualche modo scientifico, però voglio dire è abbastanza assodato che la contestazione fatta, come dire, l'ipotesi avanzata da questo medico sia insussistente, cioè non abbia una base scientifica attendibile, perlomeno allo stato della ricerca, diciamo. Ti ringrazio, Leonardo Maisano da Londra. Professoressa Susanna Esposito, buongiorno. Buongiorno. Con lei, diciamo, chiudo e esaurisco la parte propriamente clinica di questa trasmissione. Ricordo che la dottoressa Esposito è un'esperta di infettivologia pediatrica, direttore della clinica pediatrica 1 della Fondazione IRCCS Cagrande, ospedale maggiore policlinico, e presidente della Società Italiana Infettivologia Pediatrica. Professoressa, il caso che sta accadendo in Galles vi fa riflettere rispetto a quanto comunque sta circolando anche nel nostro paese su questa presunta nocività dei vaccini? No, allora io però vorrei fare alcune precisazioni perché forse da diciamo due esperti, non sicuramente medici o non forse esperti del problema, sono stati comunicati in maniera non corretta, questo lo devo sottolineare. Io sono anche presidentessa della commissione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'eradicazione globale, quindi dal mondo, di morbillo e rosolia congenita. Allora, lo studio a cui il suo collega faceva riferimento, lo studio di Wakefield, è uno studio del 98, quindi diciamo ormai datato, a fronte del fatto che era poi emerso che Wakefield aveva ricevuto un'ingente somma di denaro da un'azienda concorrente che intendeva mettere in commercio un altro vaccino. Sta precisando in maniera molto corretta quello che aveva accennato il collega. Lui in realtà voleva proporre un altro vaccino, però in realtà il discorso è che nella comunità scientifica questo problema è stato ampiamente superato, cioè nessuno nella comunità scientifica. Ma come mai ancora la televisione italiana fa passare questa tesi? Ma non tesi? È vero che la televisione italiana fa passare questo. Le posso dire che in molti programmi di intrattenimento ci sono persone che dicono che ancora no, cioè tra la televisione e degli antivaccinatori che sono poi magari molto attivi, quindi non sono persone, non sono dei giornalisti, ma sono dei liberi cittadini che evidentemente hanno dei validi metodi, cioè dei validi sistemi di arrivo appunto ai canali di informazione per sostenere appunto verità che non esistono. Noi stiamo chiamando lei proprio perché abbiamo fiducia nella comunità scientifica. Certo, perché quindi credo che il discorso non vada impostato così, credo che il discorso vada impostato sottolineando che l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta facendo un grosso lavoro per l'eradicazione dal mondo di morbillo e rosolia congenita. Tra l'altro, ci fa piacere. Non è stato sottolineato l'importanza anche della rosolia congenita che può dare Signora, scusi, no, professoressa, se no non ci capiamo. Io non ho messo sotto accusa nessuno, ho semplicemente dato un dato di fatto. In una zona del Galles in cui è stato dato ampio credito a una cialtronata fatta da uno pseudo divulgatore scientifico, in questo momento è esploso il morbillo. Su questo volevo un suo commento. Non si sente messa sotto accusa. Il problema è che si parla, cioè non è che tuttora in Galles viene dato ampio credito a questa teoria, quindi è una teoria che risale ormai a 15 anni fa. Allora come si spiega che si è esploso improvvisamente il morbillo proprio in quella zona? Si spiega perché naturalmente, siccome è comparsa 15 anni fa, i ragazzini di 15 anni tuttora sono suscettibili. Quindi se si vuole raggiungere l'obiettivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che peraltro è un obiettivo condiviso dalla comunità sanitaria. Guardi, non è in questo momento in dubbio l'obiettivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Io le chiedevo un suo giudizio sul fatto specifico di cronaca. Il fatto specifico di cronaca è che chi non ha avuto il morbillo e che non ha fatto la vaccinazione antimorbillo si prende il morbillo, deve farla soprattutto che sia in età adolescenziale. Siccome l'attenzione verso le malattie infettive è particolarmente elevata nei primi anni di vita e non in età successiva, soprattutto in età adolescenziale, anche per dimenticanza, genitori che 15 anni prima magari non avevano aderito appunto per queste ragioni a una campagna non sono allertati sull'adesione. Non è che non sono allertati perché pensano che venga autismo, ma perché non hanno percepito il fatto che la vaccinazione non va eseguita solo nei nuovi nati e nei soggetti di 5 anni di età, ma anche negli adolescenti suscettibili o comunque negli adolescenti che magari, siccome un tempo si diceva serve solo una dose di vaccino, che magari non hanno eseguito la doppia dose. Quindi il più importante perché si raggiunga l'obiettivo che è l'eradicazione della malattia è quello di ricordarsi che c'è una grossa fetta di popolazione che a fronte di novità scientifiche naturalmente prima non poteva aderire a certe campagne che non erano magari strettamente in vigore o non erano così articolate come sono ora e che quindi essendo esposta a un possibile rischio è importante che venga vaccinata. Quindi lo sa perché questa mattina abbiamo chiamato lei? Io normalmente non mi occupo di vicende medico-scientifiche, perché a me preoccupa il fatto che molte volte delle vulgate, delle asserzioni che non partono dalla comunità scientifica possono avere degli effetti negativi sulla popolazione. Io non metto in dubbio l'efficacia delle campagne che state facendo, assolutamente, ma il potere dei media molte volte va oltre quelle che sono le buone intenzioni. L'ho chiamato proprio per rettificare, per dire che in realtà esiste una accertata efficacia dei vaccini, probabilmente. Chi dice che i vaccini danno strani effetti perlomeno non si basa su convincimenti di tipo scientifico e sperimentato. Certo, ma i punti sono due: l'efficacia da una parte e la sicurezza dall'altra. Chiaramente un vaccino deve essere efficace ma anche altrettanto sicuro. E poi naturalmente il problema riguarda sia i nuovi nati che accedono al programma vaccinale che naturalmente chi magari ha già una certa età, anche l'età adolescenziale, un'età adulta, e non ha partecipato a programmi precedenti perché quando era piccolo questi programmi non erano in atto. Allora, a fronte del vaccino morbillo parotite rosolia, quello che si può dire, i suoi obiettivi principali sono l'eradicazione del morbillo, che è una malattia che può essere eradicata come la polio, e il morbillo è una malattia che può essere mortale, che può dare meningoencefaliti anche mortali. Qual è secondo lei il messaggio giusto? Fate attenzione ai vaccini, potrebbero dare effetti collaterali, o vaccinate i bambini? Assolutamente vaccinatevi, è quello che le volevo dall'inizio. Mi aspettavo che lei mi dicesse, come rappresentante appunto di un importante e attestata organizzazione che questo fa. Fermiamoci un secondo. Stefano Morigi, buongiorno. Filosofo della scienza. Vediamo se portiamo il problema non da un punto di vista prettamente clinico, come appunto stiamo facendo, ma da un punto di vista più generale, nella fiducia in ciò che scientificamente la comunità appunto degli studiosi accerta come perlomeno efficace, quello che passa ogni giorno, ogni momento nella subletteratura, nei magazine, nei programmi dedicati alla cura delle cipolle e della pipì di vacca. Sai, c'è un grosso problema. A fronte dell'impegno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di tutte le iniziative di cui la professoressa parlava, che sono sicuramente valide ed efficaci, c'è il problema grosso della comunicazione di massa e della responsabilità dei media, a cui aggiungo quello della visibilità pubblica degli scienziati e dei giornalisti scientifici. In Inghilterra, nel Regno Unito, a fronte di questo caso del Galles, la polemica che ha portato alla cacciata dall'ordine dei medici di Wakefield è nata da un giornalista del Sunday Times, Brian Deer, che ha mobilitato la comunità scientifica, si è attorniato degli scienziati più accreditati e ha dimostrato la gravità, oltre che la cialtroneria, che stava dietro questa cattiva, pessima comunicazione di false notizie che ha prodotto quello che abbiamo sentito poco fa. Ma come mai, Stefano, sul piatto della bilancia equivale quello che dica un cialtrone rispetto a quello che dice la rappresentante di una comunità scientifica che ha dietro naturalmente un lavoro potente, poderoso, spesso certificato, confrontato? Ma sai, purtroppo c'è una cosa da dire, che non sempre le, diciamo per comodità, verità scientifiche sono verità intuitive, vanno spiegate bene. Devo dire che i paesi anglosassoni hanno una tradizione di cultura di comunicazione della scienza che noi non abbiamo, e ciò nonostante succedono i casi come quelli del Galles. Devo dire che in Italia, e la cronaca ci sta raccontando di casi drammatici da questo punto di vista, l'opinione pubblica è più vulnerabile anche a fronte di campagne che io reputo criminali, come quelle che si leggono di questi tempi o si ascoltano nelle televisioni a ogni ora, che sostengono l'opportunità di provare false terapie non supportate da evidenze, non controllate pubblicamente, o addirittura si buttano là ipotesi proprio come quella che i vaccini produrrebbero l'autismo in programma, senza mai un contraltare della comunità scientifica ufficiale. Ora c'è un punto che va chiarito: la scienza e la ricerca scientifica costituiscono un sapere pubblico, rivedibile e controllabile, le tre cose insieme. Quando qualcuno salta fuori, e un privato, un ricercatore isolato, che sostiene di avere una terapia che può salvare il mondo dall'autismo, dal tumore o da quant'altro, ma questa terapia non viene sottoposta al controllo pubblico della comunità scientifica, questo a priori è un cialtrone, perché rifiuta una delle tre caratteristiche che fanno del sapere scientifico un sapere pubblico, rivedibile e controllabile. Questa è una garanzia per i pazienti, questa è una garanzia per il progresso del sapere scientifico. Noi avremo modo adesso di approfondire, dopo l'informazione della borsa, quello che stai dicendo, Stefano, ma ti faccio un esempio molto pratico. Mi arriva adesso un SMS, naturalmente, un ascoltatore mi dice: sono un cialtrone, provami che i vaccini non fanno venire l'autismo. Ma io non sono un medico, non appartengo la comunità scientifica, posso tutt'al più divulgare quello che è la voce ufficiale della comunità scientifica, come l'ascoltatore che mi scrive non è un medico, non ha la necessario supporto di letteratura per poter affermare delle cose, soprattutto non ha modo di farlo provare, di farlo testare. Non è che adesso attraverso internet tutti ci sentiamo esperti di tutto, questo probabilmente è il vero problema. Melog, la realtà condivisa. Trovo in questo momento la conferma del senso di questa trasmissione con l'ultimo SMS che mi è arrivato. Vi metterei tutti in carcere, ignoranti cronici, servitori di lobby farmaceutiche, non avete capito che creano malattie per vendere farmaci anche tramite le vaccinazioni, meglio un morbillo che rischiare l'autismo. Ma tanto tutto sta crollando, come la politica e l'onestà, speranno a questi esseri che hanno paura delle leggi della natura. Beppe da Prato. Mi ero interrotto con Stefano Morigi, solo una battuta sulle leggi della natura. È una questione complicatissima, sono quelle che gli scienziati, i ricercatori tentano di indovinare, chiamando più modestamente e cautamente leggi scientifiche. Non sono esattamente la stessa cosa, no? Sono due concetti leggermente diversi, ma senza entrare nel merito epistemologico della questione, la cosa importante è che in un mondo che fortunatamente è stato aperto dalla rete, pieno di dati, di informazioni, bisogna però, come dire, aumentare la criticità nell'analisi delle fonti, dell'autorità delle informazioni e di chi appunto queste informazioni fa circolare nel mondo della rete. Si parla spesso del ruolo dei giornalisti, in questo caso dei giornalisti scientifici, in un mondo appunto dove tutti siamo blogger, tutti siamo opinionisti. Beh, questo è il momento in cui i giornalisti dovrebbero farsi carico della responsabilità di una nuova, come dire, autorevolezza della rete e far da filtro tra il mondo della scienza e chi cerca l'informazione. Sentiamo un attimo Stefano, due ascoltatori, poi andiamo avanti. Osvaldo, buongiorno. Buongiorno. Sì. Io faccio la prefazione anch'io sul fatto che le case farmaceutiche ci hanno interesse a vendere i farmaci, questo vediamo quando andiamo dal medico curante, quando entrano i rappresentanti di medicina. Sì, sì, su questo non ci piove, certo. Sì. Ok. Poi mi chiedevo, ma i vaccini non hanno controindicazioni? E se hanno controindicazioni, perché questo scienziato, il fatto che abbia fatto questa affermazione, debba uscire fuori dal giro della scienza trasparente, quindi della medicina riconosciuta? Perché non si intervista anche questo scienziato prima di chiamarlo cialtrone? Beh, perché già ha subito un processo, già è stato perseguito a termini di legge per quello che ha fatto. Cosa devo altro fargli dire? Scusi. Quindi già gli hanno riconosciuto che scientificamente non è così? Sì, certo, sì. Vabbè, allora ricordo solo che Galileo Galilei diceva che la Terra... Va bene, questo è il suo punto di vista, mica voglio contestarla, dico, perché lei, mi domando, e non ho nessun tipo di pregiudizio quello che lei dice, è più portato a considerare l'elemento di trasgressione rispetto a quella che è una comunità scientifica e rispetto a quello che dice la comunità scientifica. È un punto di vista il suo. Lei, come me, non abbiamo strumenti personali per verificare l'una o l'altra tesi. Possiamo dire la comunità scientifica ha un metodo per affermare alcune realtà, sempre pronta a rimetterlo in discussione, ma la rimessa in discussione deve passare attraverso lo stesso metodo. Alex, buongiorno. Buongiorno, chiamavo per questa storia dei vaccini. Io e la mia compagna, durante la gravidanza della mia compagna, ci siamo informati, insomma abbiamo cercato di prendere delle informazioni che siano anche un po' veritiere, perché in internet si trova un po' di tutto. Abbiamo deciso di non vaccinare nostra figlia. Mia figlia adesso ha 14 mesi, è sanissima, mangia, non ha nessun tipo di problema. Fatto sta che molti ci puntano il dito perché magari non l'abbiamo. Trovo delle differenze, insomma, tra mia figlia e gli altri bambini che sono stati vaccinati. Ma questo non prova assolutamente nulla, sono felice che sua figlia stia benissimo e spero stia bene per tutto il resto della sua vita. Non è un caso che attesta la veridicità di l'una o l'altra tesi. Vede, il ragazzino del Galles a 16 anni gli è nato il problema, ma questo non vuol dire assolutamente nulla. Lei ha preso una sua decisione basandosi su informazioni che aveva visto in internet e alcune sue perplessità, ha fatto una sua scelta, è libero di farla. Dottor Salvo Di Grazia, buongiorno. Buongiorno. Il dottor Salvo Di Grazia è un medico chirurgo specializzato in ostetricia e ginecologia, ma l'abbiamo chiamato questa mattina perché cura un blog, MedBunker, quello che chi cerca aiuto deve sapere. È un blog in cui analizza da anni tutti i casi, le teorie, le frodi legate alla pseudomedicina. Rispetto al dibattito di questa mattina che l'ho fatto ascoltare fino adesso, dottore, qual è il suo punto di vista? Beh, quello dei miei colleghi, di chi ha già parlato. Io in proposito vorrei fare l'esempio di chi le ha mandato l'SMS che diceva dimostratemi che i vaccini non causino l'autismo. In realtà questo è proprio il punto di vista opposto di conoscenza, nel senso che chi è che fa un'ipotesi che deve dimostrarla, altrimenti potrei usare un famoso esempio, dimostratemi che nell'universo non c'è una grande teiera che circola attorno al sole e nessuno la vede, oppure dimostratemi che nel mio garage ho un elefante invisibile. Cioè chi fa un'ipotesi deve portarla avanti, e l'unica persona che tanti anni fa fece questa ipotesi dei vaccini come causa dell'autismo fu il dottor Wakefield, di cui avete parlato, che poi si dimostrò in realtà creò una frode scientifica tra le più note al mondo, tanto che fu appunto espulso dall'ordine dei medici inglese proprio perché si dimostrò una frode oggettiva. Ma come si spiega, lei, dottore, che questo signore, ancora a distanza di anni, venga considerato quasi un Galileo, un perseguitato? Sia più facile credere a quello che affermava questo signore piuttosto che fidarsi di quello che è una realtà al momento scientificamente provata? Perché lui probabilmente ha trovato un colpevole. Cioè magari le famiglie che vivono il problema dell'autismo, nell'incertezza della medicina, che può esserci come in tanti campi, lui invece ha identificato il colpevole nei vaccini e quindi è diventato un po' riferimento di chi crede a questa teoria, che è assolutamente implausibile. Tiziano, buongiorno. Buongiorno, chiedo scusa se intervengo, volevo semplicemente dire alcune cose. Io ho una nipotina che è autistica. Io ho un figlio che è autistico. Perfetto, chiedo, quindi sappiamo di cosa stiamo parlando. Allora, quello che mi stupisce, ma nel senso buono della parola, di questa trasmissione è che finora si siano fatti intervenire, fra virgolette, dei pseudo esperti. Non sono pseudo esperti, non sono pseudo esperti. Mi permetta. Dei pseudo esperti che affermano che secondo loro i vaccini non fanno assolutamente male e non creano assolutamente alcun tipo di problema. Ora, mi devono spiegare questi signori, poi parliamo anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, solo 30 secondi, per quale motivo l'autismo era malattia praticamente sconosciuta fino agli anni 50 ed ha cominciato ad avere un'esplosione spaventosa di casi nel momento in cui si sono state... Guardi, no, Tiziano, no, la interrompo subito, siccome non vorrei sembrare che parlo sempre di argomenti legati alla mia esperienza personale, su questo tema ho fatto una lunga, dettagliata trasmissione non più tardi 2 settimane fa, quindi non voglio in questa mattina ritornare sul tema dell'autismo. L'abbiamo spiegato più volte qual è il motivo per cui oggi se ne parla di più, lo so bene, lo so sulla mia pelle. Lei non ha in questo momento nulla da aggiungere rispetto a quello che abbiamo già detto, mi dispiace. Comunque, salvo di grazia, professore. Sì. Vediamo, io non so, mi sembra, sto ripetendo cose che sto dicendo da mesi, se non da più tempo, devo purtroppo personalmente spesso arginare i genitori di autistici che mi scrivono, dicendo: ma tu vergognati perché stai avvalorando la tesi delle multinazionali, noi sappiamo che l'autismo ai nostri figli è dato dai vaccini. Ognuno è libero di pensare quello che vuole. Su questo tema mi sono quasi, è brutto dirlo, stancato di dover ritornare sulle stesse cose. Poi vediamo se lei riesce a sostituirmi in questa per me dolorosa fase. Certo, no, ma purtroppo le spiegazioni che sono state fornite scientificamente ci sono, esistono anche su questo aumento presunto di casi, però non vengono accettate, c'è poco da fare. Io sottolineo sempre che la scienza a volte dovrebbe imparare a comunicare meglio, cioè ad arrivare meglio a chi ha bisogno della scienza o della medicina. È chiaro che l'informazione su internet è molto più immediata, rapida, con un click riesce a raggiungere informazioni in tutti gli angoli del mondo, e questo tante volte non viene attuato, di questa possibilità non si approfitta lo scienziato e il medico. Ultimamente devo dire che qualche apertura c'è, perché anche delle istituzioni mediche, alcune USL come quella di Rimini per esempio, stanno provando ad avere un approccio verso i pazienti anche via web, cioè quindi con un linguaggio un po' più rapido e più a portata di tutti, e si cerca di rispondere a questi dubbi che sono comuni, cioè tanti genitori si chiedono: ma è vero che l'autismo, ma è vero che i vaccini? Per non parlare delle cure per il cancro, per altre malattie. Ecco, allarghiamo un po', se no sembra che vogliamo parlare solo di vaccini e autismo. Mi fa qualche altro esempio, dottore, di situazioni analoghe in cui una controinformazione scientifica seminerebbe panico? Mi scrive un ascoltatore, mi sembra il miglior messaggio che ho ricevuto stamattina. Chiedi a questi signori se qualcuno di loro si fiderebbe di montare su un aereo disegnato e strutturato e progettato da un ingegnere alternativo. Sì, io dico sempre che le malattie alternative si curano con la medicina alternativa, no? Cioè, alla fine, se esiste una medicina plausibile, non infallibile, ci mancherebbe, plausibile, quella oggettiva, scientifica. Poi ognuno è libero di avere le proprie opinioni, ipotesi, idee, ma deve dimostrarle. E proprio sulla cura di malattie gravi, come il cancro, ne esistono a centinaia di cure alternative. Alternative perché non sarebbero coerenti con ciò che la scienza ha dimostrato. Allora, l'ultima dell'urinoterapia è circolata come facezia, però c'è chi ci crede alla fine. No, c'è chi la pratica l'urinoterapia, questa è la cosa più strana, per così dire. C'è chi ci crede, ed è la cosa anche più delicata, è quello che se tu provi a convincere o a spiegare o ad informare questa persona, lo vede come quasi un attacco personale, cioè tu vuoi intaccare le mie certezze, io ci credo e quindi vado avanti. Questo è il compito del medico, dello scienziato, è anche quello di parlare in maniera da raggiungere chi utilizza la medicina. Sul cancro ne abbiamo centinaia, dalla ormai conosciuta cura di Bella alla terapia con il bicarbonato, con la ricotta, con l'elettricità. In America si usano i frullati di frutta e tutti garantiscono una guarigione nel 90% dei casi. Il problema è che poi alla verifica scientifica di queste teorie non vi è mai una realtà. Io conosco persone che girano con lo zapper, con quell'affare elettronico, se si tocca cura tutte le malattie. Un giorno ne parlerò, ma mi viene da sorridere vedere persone che si portano da valigetta due tubi elettrici, ci tengono le mani e pensano in quello di guarire da un'infinità di malattie. Non so perché porti più fiducia a pensare che un attrezzo che dà un po' di scossa possa guarire dalle malattie, piuttosto che qualcosa che perlomeno ha avuto dietro un lavoro complesso. È chiaro che pensare che esista la grande sinarchia, il grande governo occulto basato sull'economia, che senz'altro in parte sarà vero, che però vuole ammalare l'umanità per poi vendergli le medicine, fa molto più comodo pensarlo. Melog, la realtà condivisa. Stiamo parlando dell'attendibilità scientifica, ma ancora di più, visto che questa non è una trasmissione scientifica, una trasmissione che variamente si occupa di capire, sentire quelli che sono i flussi emotivi della società, e uno di questi è il dare credito, il dare anzi più che credito, dare fede assoluta in tutto ciò che si mostri come alternativo, di come clandestino, come antagonista rispetto all'ufficialità, che molte volte questo crea una interessante dinamica nella società, nel cambiamento, ma rispetto a questioni così delicate come la cura medica, come l'attendibilità scientifica, vale la pena forse di fare un punto. Roberta, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Senti, io chiamavo appunto a proposito dell'urinoterapia, sentivo prima parlare di persone appunto che la applicano, c'è chi ci crede, c'è chi no. Io la applico ormai da, vogliamo dire, una quindicina di anni. Io è circa 15 anni che non riscontro più, non faccio più l'influenza. Posso dire una cosa? Nemmeno io ho più l'influenza da non so quanto e non me la sono mai bevuta. Però questo sì, diciamo anche che perché semplicemente non me la posso permettere, perché devo comunque andare a lavorare, quindi non so perché viene a tutta la famiglia, a me non viene. Certo, diciamo, vabbè, questo fa parte sempre anche della predisposizione a un corpo di reagire diversamente. Eh sì, ma io non me la bevo, lei dice che è dovuta alla sua bevuta quotidiana, io dico che può accadere comunque. Ma io dico una cosa, ci sono tantissimi libri che parlano dell'urinoterapia. Ma anche degli UFO, anche degli extraterrestri. Ma infatti, io mica dico che è proibito crederci. Assolutamente. Ognuno può credere quello che vuole, però quando la posta in gioco, la posta, sì, no, sull'urinoterapia lasci perdere. Sì, dottor Pierfrancesco Della Rovere, ma è un professore di Torino, un medico, una persona che io conosco da tantissimi anni. Basta cliccare su internet, Pierfrancesco Della Rovere è uno stimatissimo professore, sì, che da sempre lui inneggia, diciamo, all'uso, l'utilizzo, a brindare con la propria pipì. Esatto, d'altronde non è diverso il principio della somatostatina del famoso di Bella, che ma poi... lei è un medico, Roberta? Diciamo in famiglia sì. In famiglia, ma lei è laureata in medicina? No, non sono laureata. Allora che in ne medicina. Sa? Scusi, ne sa quanto me. Ha leggiucchiato qualche libro e ha guardato qualche sito internet? No, io applico peraltro delle tecniche di rilassamento, ma diciamo sono operatrice nel campo dell'energia. E che è il campo dell'energia? Cos'è? Il campo dell'energia, ecco, una cosa che non hanno, che qui in Italia e in Occidente non si è mai parlato. Per fortuna. Io sono di origine francese. Sì. Diciamo tutti i miei parenti in Francia la conoscono ormai. E cosa fanno in pratica? Cosa fanno? In Francia sono molto più avanti di noi, certo. Sperimentano molto di più. E l'energia cosa funziona? Come funziona? L'energia è un campo magnetico che ognuno di noi ha e possiede, come tutti i campi. Ma cosa guarisce il campo magnetico? Il campo magnetico non è che guarisce, bisogna guarire lui per guarire il corpo. E come si guarisce il campo magnetico? Il campo magnetico, ci sono tantissimi seminari. No, ma faccio l'esempio concreto, perché dobbiamo capire. Carissimo, l'esempio concreto non è che possa farlo più di tanto. Mi sintetizzi. Perché sono delle vere tecniche. Ma come funziona? Cos'è tipo yoga, ginnastica? Tipo, non è uno yoga, però per parlare diciamo in termini forse più semplici, sì, possiamo paragonarlo tipo uno yoga e trarre energia, come fanno le piante, dal terreno, distribuirla in tutto il corpo. Ma come si fa questo? Si respira? Con le respirazioni. Ah, respirando, sì. Io personalmente ho frequentato un istituto di crescita spirituale per 7 anni. Sì, e adesso cosa è diventata? E adesso sono diventata operatrice. Quindi lei si fa pagare per fare questo tipo di terapia? A volte sì, ma sono... Ma lei è registrata a qualche ordine professionale, un riconoscimento ufficiale? No, ufficiale come no. Fanno? Le mettono i soldi in mano dopo che li ha fatti respirare? No, diciamo che no, non li faccio solo respirare. Sì, ma come la pagano? Cash, come la pagano? No, offerte. Offerte. Questi soldi in qualche maniera lei poi registra nella sua dichiarazione dei redditi che prende questo denaro? Ma questa cosa non so se dipende la sua domanda dal fatto se... No, è una domanda lecita. Certo, certo che sì. E sotto quale voce? Prestazione professionale? Di che tipo? Tipo naturalistico. Sì, quindi lei ha una partita IVA iscritta a qualche... No, perché comunque tutte le volte che si applicano queste tipi di tecniche non c'è bisogno di partita IVA. Resti in linea. Salvo di grazia, dottore. Vediamo un po'. Io ho preso una casistro, ma non ho nessun accanimento contro la dottoressa Roberta, maestra di respirazione e di urinoterapia. Però su questo caso lei cosa ha da dire? Che uno sarà uno delle fanta migliaia di casi che lei tratterà? Beh, sì, sono centinaia, forse migliaia in Italia, nel mondo, di queste persone che si improvvisano terapeuti e che inventano energie, strani magnetismi mai dimostrati. Qualcuno se la beve, non l'urina, ma queste storie dei magnetismi, e quindi ci crede e paga queste persone che non hanno nessuno studio dietro, nessuna preparazione. Io per diventare medico specialista ci ho impiegato 13 anni, oltre al fatto che mi aggiorno costantemente. Queste persone si inventano un'idea, un'ipotesi, non la dimostrano, e guai a contraddirle, perché si arrabbiano anche. Stefano Morigi, ancora in linea. Roberta, devi fare qualche domanda alla nostra dottoressa? No, intanto non so se è dottoressa, quindi non sprechiamo titoli per niente. Vabbè, sai, oggi è talmente inflazionato il termine. Vabbè, appunto, mettiamo ordine, anzi, disformalmente dottore a chi ha un dottorato di ricerca, se no è un semplice laureato, almeno così nei paesi civili. Ma torniamo al punto, bisogna vedere se la gente preferisce fidarsi di imprecisati, forse anche agli occhi del fisco, operatori dello spirito, oppure di scienziati che hanno speso la vita a studiare e che sanno che comunque ci muoviamo in un mondo di incertezza dove non si propongono soluzioni definitive, ma si valuta razionalmente i rischi in campo. Ti faccio un esempio, Stefano, ti faccio un esempio, e so che questo susciterà. Ho saputo ieri, lo dico in via riservatissima, quindi non darò nessuna informazione sulla località, sulla tipologia, dei genitori di un ragazzo che aveva problemi di tipo psichico, hanno pensato di portarlo dall'esorcista, pensando che per loro quella era la terapia. Il prete, che era un prete probabilmente in gamba e sensibile, ha dovuto simulare un esorcismo. Questi genitori ha dovuto far mangiare l'ostia al bambino per dirgli: guardate, mangia l'ostia, quindi vedete, non è indemoniato, portatelo per favore a un neuropsichiatra. Guarda, il problema è, io capisco... Se no non sarebbero rimasti lì, non sarebbero mossi da questa posizione. Esatto, io capisco che i genitori, quando si trovano ad avere un figlio, un parente, quel che è, con gravi patologie, sono disposti a tutto. E questo è sacrosanto, lo capisco. È più che comprensibile. Altra cosa però, e insisto sulla comunicazione della scienza, è la legittimazione mediatica della cialtroneria. È pericolosissima, la si paga. Il caso del Galles è indicativo, perché a fronte di una comunicazione di falsità avvenuta nel 98, ci sono bambini che rischiano la morte oggi in ospedale. Allora, o si comincia a ragionare sui fatti e sulla comunicazione della scienza come una percezione dei rischi sul campo e dell'attendibilità probabilistica delle teorie, o altrimenti si fa fuffa che però si paga con la vita. Enrico, buongiorno Enrico. Sì, buongiorno a tutti. Senta, io ho una patologia, no? Io sono sieropositivo da diversi anni, e sono stato da un omeopata, un medico omeopata, e lui mi ha prescritto determinate terapie. Devo essere sincero, mi ha detto di non sospendere le terapie retrovirali che già sto assumendo. e lui mi aveva detto che comunque prendendo queste determinate terapie che mi dava lui sarei entrato in sieronegatività, cioè sostanzialmente sarei guarito. Ecco. No, non è successo assolutamente nulla, esami del sangue alla mano, la terapia è andata avanti, lui diceva in 3 mesi, io l'ho fatta addirittura per 6 mesi, non è successo assolutamente nulla, nessuna variazione. Addirittura al mio compagno, che anche lui è sieropositivo, aveva detto di non assumere più latticini derivati dal latte, vi dicendo il latte, e siccome purtroppo l'osteoporosi è un effetto collaterale di alcuni stati avanzati della patologia, a lui è venuta l'osteoporosi all'anca. Quindi Enrico, vuol dire, lei l'ha fatto perché uno non abbandona mai nessuna strada, questo mi sembra logico, però ha prudentemente tenuto attiva la cura, sì, la terapia, sì, tradizionale. Sì, sì, sì. No, ma anche con consiglio dello stesso medico di mantenere comunque attiva la terapia retrovirale. Quindi, però quindi, non è assolutamente... quindi non sbagliava mai, il medico non sbagliava mai. In bocca al lupo, ma Enrico. Non è successo nulla. Ecco, in bocca al lupo, successo. Salvo di grazia, dottore. Sì. Quest'ultimo caso, visto che... Beh, questo è un altro esempio, appunto, di cialtroneria. Promettere che una cura alternativa, una pseudoscienza, possa guarire malattie gravi, assolutamente una follia. Poi ognuno è libero di credere appunto a affidarsi alla prenoterapia, all'omeopatia, all'agopuntura. E fortunatamente esiste la libertà personale e la libertà di cura, ognuno di noi può scegliere come curarsi. Non sono i pazienti il problema, che magari sono poco informati o non proprio esattamente pronti ad accettare una teoria scientifica, quanto i cialtroni. Cioè, il medico. Però diciamo una cosa, dottore, proprio in conclusione, per non sembrare che noi... Esiste una cialtroneria così diffusa, così provata, così penalmente perseguita anche nell'ambito dell'ortodossia, dell'esercizio della professione medica, che molte volte questo potrebbe anche portare a dire, beh, andiamo a vedere cosa ci può essere oltre questo. Ma infatti il ciarlatano è ciarlatano da qualsiasi parte lì, ecco, cioè, voglio dire, non è solo chi propone teorie astruse, ma è anche chi fa medicina e magari ha delle sue idee, che oppure un'incapacità di fondo, ecco. La ringrazio, dottore, ringrazio Valerio Rocchetti e Fabrizio Intonti, noi ci sentiamo domani.